Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Alba del 17 giugno 1983. Sulla base delle dichiarazioni di 11 pentiti, il popolare presentatore televisivo Enzo Tortora viene arrestato su mandato della Procura di Napoli. L'accusa per lui è grave: collusione di stampo camorristico. Enzo Tortora, sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo, un'associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata, come si legge nei documenti giudiziari, al traffico della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona. Enzo Tortora viene assunto in Rai a 23 anni, conduce il programma radiofonico Campanile d'Oro. Nel 1956 il suo debutto in video, con Silvana Pampanini in primo applauso. Dopo Telematch, il popolare presentatore Mike Bongiorno lo lancia come conduttore televisivo in Campanile Sera. Ritorniamo qua in cabina a Roma 9, Monfalcone 7. Che cosa fate? Da 1 da 3 Monfalcone? Il parere del portavoce, pronto Monfalcone? Monfalcone, adesso fate dei vostri calcoli nella piazza. Sono 3 punti. Le cose sono 3 punti. Sono 3 punti. Sono 3 punti. 3 punti. Va bene, siamo 3 punti. Quale numero? Ma le passioni di Enzo Tortora restano il giornalismo e la radio. Nel 1961 è a fianco di Tino Scotti nel Signore delle 13. Finito il giornale radio, torniamo a noi. Lettera di un ascoltatore. Non ho purtroppo il televisore in casa. Non mi sembra giusto però che chi non è in condizione di acquistarlo debba essere messo in stato di inferiorità davanti al teleutente. Perché non date per radio quello che danno in televisione? È il 1968 e la contestazione entra anche alla RAI. Enzo Tortora in radio ne parla più volte nel programma Voci e Suoni del 68. Sono Enzo Tortora. Per quello che mi riguarda, il mio compito è semplice. Dare i risultati, l'1-2-X di un settore del 1968. Diciamo fare la schedina del toto anno per quello che riguarda gli spettacoli della radio e della televisione. Ci sono stati dei clamorosi 13, dei faticati pareggi. Il 1968 nel campo dello spettacolo è stato un anno non semplice, piuttosto inquieto, anzi. La parola contestazione è comparsa anche alla ribalta, sugli schermi, nei cabaret. Il 1968, ripensato così a distanza, sembra frantumarsi in 1000 piccoli episodi. Autori che rifiutano i premi, giurie in imbarazzo. Ad Enzo Tortora vengono affidate 2 importanti trasmissioni TV, Il Gambero e La Domenica Sportiva, dal 1965 al 1969. Poi arriva all'allontanamento. Scontri con la produzione e con alcuni funzionari della RAI. Enzo Tortora collabora con emittenti private e quotidiani. Rientrerà poi in RAI. Nel 1977 affianca Raffaella Carrà in Accendiamo la lampada. Poi lancia Portobello, il suo prodotto più conosciuto. 26 milioni di telespettatori. Pochi minuti fa ha telefonato, lei non sapeva se non della sua esistenza, non l'aveva mai vista, una sua sorella. Nel 1982 approda alla televisione commerciale, conduce Cipria a Rete 4. Il 17 giugno 1983, per Enzo Tortora inizia il suo lungo calvario giudiziario. 17 giugno 1983, è un giorno che ricorda a me molto e credo siglò la discesa del buio non soltanto dentro di me, ma buio su un certo modo di fare giustizia. Fu una storia lunga, dolorosa, combattuta sempre, giorno dopo giorno. Enzo Tortora ricorda quella giornata attimo dopo attimo, come fosse un incubo. Il presentatore si trova all'Hotel Plaza. I carabinieri lo vanno ad arrestare. La scena viene ripresa più volte dalle telecamere e diventerà il simbolo. Ero nella stanza dell'albergo da dove scendo da circa 20, 22, 23 anni. Bussarono alle 4 e un quarto del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine, ecco, mi dissero, dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato, e io risposi, allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo credo che la notizia sia lievemente esagerata. Non capii nulla e entrai in questa dimensione demenziale e inorridì quando vidi che non di un incubo o di un sogno si trattava, ma di una verità. Raffaele Della Valle è l'avvocato di Enzo Tortora. Tortora mi telefona alle 5 del mattino, è agitato, e mi dice che i carabinieri lo stanno arrestando perché è associato alla nuova camorra organizzata. Io credevo che fosse uno scherzo, perché evidentemente la cosa era così al di fuori del comune che non potevo certamente immaginare che non si stesse scherzando. Enzo Tortora si trova dunque in carcere, accusato da personaggi del sottobosco camorristico senza scrupoli. Questo ignobile spettacolo dell'uomo in manette fu di fatto in televisione per giorni, per settimane, il carosello ossessivamente riprodotto della camorra. Quando io in carcere non comprendevo, non sapevo, ero bombardato da nomi mai sentiti. Tra poco, dopo la pausa, il racconto del giallo nero sul caso Tortora. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Tortora si impegnerà in politica. Il 17 giugno 1984 diventa europarlamentare con il Partito Radicale. Per lui scatta l'immunità, ma intende andare avanti nella sua battaglia di giustizia. Il dovere di un cittadino, come io sono, di essere proposto davanti ai propri giudici, assolto o condannato, dal momento in cui la giustizia lo persegue. Ho già detto come i radicali che ho l'onore di rappresentare in questa battaglia per l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge non desiderano che questo, la possibilità di dimostrare che ogni cittadino, parlamentare o no, ha il dovere sacro di presentarsi davanti ai propri giudici, di esigere la giustizia. Là dove, ben inteso, esiste ancora uno Stato cosiddetto di diritto. I delitti che mi imputano, delitti infami e infamanti, non hanno nulla a che fare, almeno all'inizio, ripeto, almeno all'inizio, non hanno nulla a che fare con una forma di persecuzione politica. Nel rispetto più grande della libertà di ogni parlamentare, io ripeto qui i principi dell'immunità, istituto creato per difendere la libertà e non per nascondere dei malfattori, non sono in questo caso assolutamente in gioco. Voi lo comprendete benissimo e io ne sono convinto. Intanto inizia il processo di primo grado. Qui sentirete le voci di Diego Marmo, pubblico ministero, le voci dei pentiti Giuseppe Pandico e Giuseppe Margiotta, quella del difensore di Enzo Tortora, Raffaele Della Valle. Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente alla organizzazione Nuova Camorra organizzata. Per mesi e mesi ho sopportato con una pazienza tanti, uno da tanti, tutte le sue miscene, non c'è nulla in contrario, io sono anche propenso, se lo permette la Corte, a farmi sottoporre alla macchina della verità. Quello che ho visto lo confermo, eh? di aver visto Tortora spacciare la droga. Beh, almeno per me era droga perché non poteva essere farina bianca, le pare. Lo sappiamo tutti oramai, purtroppo, che se cade la posizione Enzo Tortora si discredita tutta l'istruttoria, una cosa che si è detta a questo momento, e probabilmente, anzi senza probabilmente, questo lo sa Enzo Tortora, ma lo sanno anche coloro i quali mandano i vari copianghi a immolarsi su quest'altare per poter screditare questa accusa. Caro signor pubblico ministero, non le è consentito, no signore, di definire quell'uomo l'istigatore, il manipolatore. C'è un regista di questa situazione. Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora. C'è in un'agenda un portobello. C'è un numero, ma non il suo. Posso però precisare che quando eravamo in Tusingella tra noi cutoliani e vedevamo alla televisione il Tortora, era normale tra di noi scherzare appellando al nostro compagno. E allora, signore, se prima ci poteva essere equivoco, se nel carcere di Santa Maria Capua Vetere confondono Enzo Tortora con Enzo Perri, adesso l'equivoco non c'è più. Ma pubblico ministero, lei lette o non le carte processuali? Ma lo sapete voi, signori, che è l'ultima persona che i giudici napoletani vogliono portare in questa vicenda è Enzo Tortora. Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza. Dichiara Tortora Enzo Claudio Marcello colpevole di reati in cui agli articoli 416 codice penale fino al 29 settembre 82. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa. Nel 1985 Enzo Tortora viene dunque condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli. Io intendo dimettermi da parlamentare europeo. Devo dirlo ai miei elettori, 485.000, e agli uomini e alle donne che hanno dato fiducia alle liste radicali. Io lì si onorerò la sentenza. Occorre non onorare una sentenza che non lo merita, ma onorare una battaglia. A proposito dei privilegi di cui si parlava prima, io voglio, perché sono un radicale, ma nel profondo di me stesso, con una scelta non violenta, mi permette di usare una parola che le sembrerà esagerata o retorica, con una scelta socratica, di mettermi, spogliarmi, non dico dei privilegi, ma dell'onore che il popolo italiano, quello stesso popolo in nome del quale dicono hanno emesso quella sentenza e ha conferito. Mi vogliono spoglio? Mi vogliono nudo? Mi avranno. Magistrati e giudici si trovano davanti per la prima volta ad un fuoco di fila di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non avevano nulla da perdere e portavano verità e menzogne per un premio. Michele Morello, giudice a latere della Corte d'Appello di Napoli. Non si aveva ancora l'esperienza di questi pentiti, cioè persone che non erano come i terroristi, forse vorrei bestemmiare, o come i mafiosi, che hanno un'ideologia. Era il primo processo di Camorra eclatante, proprio perché c'era Tortora e qualche altro imputato eccellente, e quindi si veniva a portare il proprio obolo per avere poi evidentemente qualche premio. Il 15 settembre 1986 la Corte d'Appello di Napoli assolve Enzo Tortora. La testimonianza di Michele Morello, giudice a latere della Corte d'Appello di Napoli, e le voci di quel processo tratte dal programma di Giovanni Minoli La Storia Siamo Noi su Rai 3. Per capire bene come erano andati i fatti, ricostruimmo il processo in ordine cronologico. Partemmo dalla prima dichiarazione, mettendo in ordine cronologico, arrivando all'ultima. Ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po' sospetta, secondo quello che aveva detto quello di prima, si accodava poi

Reato analcolico settimanale di Enzo Tortora, Gigi Marsico, Piero Angela e Mario Pogliotti. Enzo Tortora, che cosa fai qua dentro? Non se l'aspettano, ma fanno male, perché i presentatori non fanno soltanto i presentatori. Adesso, a parte gli scherzi, io lavoro alla Nazione, collaboro da 3 anni e sono molto lieto dell'opportunità che mi ha dato la Nazione. Signore e signori, buongiorno. Io dico, tu dici. È il titolo di un breve ciclo di trasmissioni sperimentali dedicate alla lingua italiana. Si è buttato soldino nella fontana di Trevi? Onestamente no. E di Genova, per forza. Tu hai detto ma va a mangiare il sapone. No, non sono capace. E già sei di Como. Mio caro Tortora, di quel tempo è molto meglio non parlare. Ero allora Silvio noto, oggi sono Silvio ignoto. Non è vero, caro Silvio. Caro Tortora, è così. Promenade! No, un momento, non cominciamo, le cose migliori le vuoi dire sempre tu. Questa dico io. Signore e signori. Disturbo? Sì. Iniziamo la nostra trasmissione con il gioco dell'oggetto misterioso. Amici, voglio dire, grazie a voi. E stati questa sera. Signore e signori, buonasera. I reverendi vengono da? Stanno Visconti. Che sono diretti a? A Milano. Guardi che non è un'inchiesta poliziesca. Ma... Signore e signori, eccovi i gol della domenica. Era spiazzato il portiere, tiro del centro avanti e rete. Si parla di scarpe, si parla di calzature ed era inevitabile mettersi alla caccia, quest'anno lo si è fatto, del personaggio dell'italiano che avesse il piede più grande, Mister Piedone, il signor Rana. Ci dica intanto la misura. Il 51. 51, per Bacco. Questa sera Portobello vuole offrire una favola vera di Natale. Papà, dai confini dell'Unione Sovietica, ha fatto un volo ed è qui, eccolo qui! Eccolo qui, eccolo qui! Buon Natale a tutti! Buon Natale! Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.